Il punto di Stefano Folli. Perché l'Unione Europea guarda sempre l'Italia con qualche diffidenza? Perché la sua fiducia non è mai completa, nonostante gli infiniti sacrifici che gli italiani fanno per stare al passo con i famosi parametri che vogliono dire tanta austerità e nessuna crescita? E perché questa diffidenza in fondo è condivisa dalla comunità finanziaria internazionale? La spiegazione è in quel clima avvelenato di cui ha parlato ieri Napolitano al Papa. È l'incertezza politica permanente il nostro handicap, da cui i dubbi sul futuro che colgono tutti coloro che dall'estero seguono le nostre cronache e non si raccapezzano fra le elite interne al partito berlusconiano e le inquietudini del Partito Democratico. È vero, come dice il Premier Letta, l'Italia nei momenti topici ce l'ha fatta da sola, con le sue forze, ma poi rovina tutto non riuscendo a dotarsi di un sistema credibile e di alcune riforme fondamentali. Così da fuori la diffidenza continua e il prezzo lo pagano gli italiani.